Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'utero in affitto incarna l'incubo di ogni donna, cioè portare in grembo per 9 mesi un bambino che poi ti viene strappato e portato via. Che cos'è la prostituzione? Vendere il proprio corpo per denaro, e la prostituzione in paesi del terzo mondo, c'è uno sfruttamento di questo in modo orrendo. Oggi stiamo parlando di vendere i propri figli per denaro e di vendere il proprio corpo come contenitore di figli di altri per denaro. Questo è quello che dice la ministra Lorenzin a proposito del dibattito accesissimo sull'unione civile, in particolare sulla stepchild adoption, ve lo ripeto, che è la possibilità all'interno di una coppia dello stesso sesso di adottare il figlio biologico del partner. Comunque, insomma, la si pensi, perché è acceso anche tra le donne molto questo dibattito del cosiddetto utero in affitto, oppure la maternità surrogata, oppure la maternità per altri, come la si voglia chiamare. Certo è che delle realtà ci sono, bisogna solo capire se le si vogliono normare, tutelare oppure no, è difficile poi comunque frenarle in ogni caso. Ma stasera parleremo di moltissime altre cose, perché ci diamo un po' di pausa, diciamo, sulle unioni civili, perché tanto a Colonia si sta svolgendo il famoso carnevale. Sapete che dopo gli attentati di Parigi, in particolare dopo che c'erano state le molestie di massa sessuali contro le donne a Colonia a Capodanno, era in forze questo carnevale. Pare che le donne si stiano riprendendo la città. Stasera ne parleremo, poi ci collegheremo direttamente con una corrispondente da una radio di Colonia. Parleremo però anche di cos'altro succede in Germania, nel senso che oggi c'è stato un blitz per sventare un possibile attentato a Berlino, al Checkpoint Charlie, che è un luogo simbolico della Guerra Fredda, al punto in cui si passava dalla Germania Est alla Germania dell'Ovest. E poi soprattutto ci occuperemo naturalmente questa sera della notizia che avevo dato in diretta ieri mentre eravamo insieme qui a Effetto Notte, cioè della morte del giovane studente friulano al Cairo. Ancora le circostanze sono oscure, ma insomma difficile pensare naturalmente che si tratti di un incidente, certamente non lo sarà, si spera però di riuscire ad arrivare alla verità, anche se in un paese del genere, già spesso è difficile il nostro, figuriamoci in Egitto. Comunque ne parleremo diffusamente anche con un ricercatore dell'Università di Londra che lo ha conosciuto e che dice che scriveva per il manifesto con uno pseudonimo di sindacati egiziani e temeva per la propria incolumità. Quello che vi voglio chiedere è: la sua morte, anche se in circostanze diverse, richiama un po' alla mente quella di Valeria Solesin, no? La giovane studentessa veneziana che è morta a Parigi negli attentati mentre ascoltava musica al Bataclan. Queste cose vi fanno sentire che il mondo è diventato più pericoloso, vi fanno passare la voglia di viaggiare, di girare, di conoscere, oppure avete mantenuto questa voglia di viaggiare? 349-238-6666, il numero come sempre per gli sms, oppure pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. I messaggi al 349-238-6666, le vostre riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte. Parto con la sintesi della giornata. La morte dello studente italiano al Cairo, sul corpo segni di tortura, scriveva per il manifesto con uno pseudonimo, aveva paura, e Mattarella e Renzi chiedono verità. Germania, secondo i media tedeschi, dietro lo sventato attentato di Berlino c'erano le menti di Parigi. Lotta all'ISIS, l'Arabia Saudita annuncia di essere pronta a inviare truppe di terra in Siria, l'Unione Europea annuncia uno stanziamento di 3 miliardi per la Siria, superati i 9 miliardi alla conferenza di Londra. Economia, l'Unione Europea lima le stime 2016 sull'Italia, il deficit sale al 2,5%. Unioni civili, il PD tira dritto, il nuovo centrodestra continua a chiedere uno stralcio delle adozioni e 40 senatori del centrodestra fanno ricorso alla Consulta. Affittopoli a Roma, Marino e Fassina contro il PD, dati vecchi quelli del prefetto Tronca, e nella capitale scontri durante uno sgombero di abusivi. Il virus Zika, donna incinta affetta dal virus in Spagna, è il primo caso in Europa. E calcio, chiusa per 2 turni la curva nord dell'Olimpico dopo i cori dei laziali di ieri. Partiamo quindi dalla morte al Cairo di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano trovato ieri in circostanze ancora oscure in un fosso, con segni di torture, di morte lenta, nudo, dalla cintola in giù. L'Italia chiede con forza chiarezza sulla sua morte, e la chiede con ragione, perché sebbene le autorità egiziane abbiano assicurato la massima collaborazione nelle indagini, le ricostruzioni che arrivano dall'Egitto sono confuse e contraddittorie. La salma in serata di Giulio è stata consegnata all'ospedale italiano Umberto I del Cairo. Cairo e intanto la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio. Sembra che Regeni collaborasse col manifesto per il quale scriveva sotto pseudonimo sui sindacati egiziani, temeva per se stesso, come racconterà qui, vi dicevo tra poco, Effetto Notte, chi lo ha conosciuto. E ora in Germania, secondo i media tedeschi, dietro lo sventato attacco a Berlino, al checkpoint Charlie, ci sarebbero gli ideatori degli attentati a Parigi, 3 le persone arrestate oggi, poi ne parleremo, così come parleremo anche delle donne di Colonia che col carnevale di oggi forse si stanno riprendendo la città, poi ci collegheremo. Per quanto riguarda la lotta all'ISIS, l'Arabia Saudita annuncia di essere pronta a inviare truppe di terra in Siria e oggi a Londra è iniziata la 4ª conferenza dei donatori per la Siria con 70 delegazioni. Finora sono state registrate promesse per 9 miliardi di euro per i prossimi 3 anni. We'll commit more than 3 billion euros to respond to the needs of Syria, Jordan, Lebanon and Turkey for 2016. Le parole del Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk da Londra annunciano un nuovo impegno economico pesante per Bruxelles. Dopo i fondi alla Turchia, per i profughi siriani, alla conferenza dei donatori, arriva più che raddoppiato il contributo dell'Europa. Più di 3 miliardi di euro per Damasco e paesi vicini impegnati come Ankara, dice Tusk, a sopportare il peso di chi fugge. Chi non arriva nel vecchio continente. Soldi cui si aggiungerà la Banca Europea per gli investimenti, che prepara un mega prestito da 12 miliardi e mezzo. L'Italia questa volta sta con i partner e annuncia lo stanziamento di 400 milioni di euro nei prossimi 3 anni. Fanno ancora di più Londra, che di soldi ne mette sul piatto 1,6 miliardi di euro, e Berlino, con la Germania impegnata a donare 2,3 miliardi di euro entro la fine del 2018. Gli Stati Uniti forniranno 890 milioni di dollari supplementari, in totale 4 miliardi e mezzo da Washington. Insieme ad Europa e Stati Uniti anche Mosca, tanto che alla fine la cifra dovrebbe superare i 9 miliardi. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Economia adesso. La Commissione europea abbassa le stime di crescita dell'economia italiana. Previsioni economiche d'inverno, un'occasione per il commissario Moscovici per fare chiarezza alla Voce Italia su tutto quanto è stato detto e scritto in questi giorni sulla flessibilità. L'Italia ha ricevuto 0,4 punti per fare le riforme strutturali, riforme che sta attuando, l'unico paese a godere di questa clausola. Poi ha chiesto altri punti di flessibilità per altre riforme, poi per gestire l'emergenza profughi, poi per la sicurezza e poi per la scuola. Su tutte queste altre richieste la Commissione deciderà secondo un calendario preciso. Non prima di maggio, sostenendo le riforme, ma rispettando le regole. Per il resto le previsioni per il nostro paese sono state riviste, così come per tutta l'area euro. 1,4 nel 2016, 1,3 nel 2017. Deficit in crescita, debito in leggero calo. L'Europa continua a beneficiare di fattori positivi come il calo del prezzo del greggio, afferma il commissario, e l'euro più debole, ma ha risentito di alcuni fattori quali il rallentamento delle economie emergenti e in particolare il caso Cina. Ma la nota dolente è l'inflazione. Per l'anno in corso è prevista allo 0,5%, dimezzata rispetto a quanto preventivato a novembre. La previsione, che sa molto di speranza, è che risalga all'1,5% nel 2017, con salari più elevati, maggiore domanda interna e un aumento moderato del prezzo del petrolio. Il cruccio di Francoforte, da dove Draghi ripete la BCE non si arrenderà davanti alla bassa inflazione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia che riguarda Unicredit: è stato firmato l'accordo tra sindacati e Unicredit sulla gestione della seconda fase del piano industriale 2014-2018 del gruppo. E questo accordo prevede 2.700 uscite tutte volontarie al 2018, con l'intesa si dà il via libera a 700 nuove assunzioni di giovani. Per le borse, giornata positiva per le borse europee, con Milano che ha chiuso in rialzo dell'1,33% e l'unica eccezione negativa è Francoforte, poco sopra la parità ai mercati americani. E siamo alla politica con le unioni civili. Il Senato ha sospeso la discussione generale sul disegno di legge Cirinna, che riprenderà martedì 9 febbraio. Cattolici alla riscossa per bloccare in extremis il disegno di legge sulle unioni civili. 40 senatori centristi dell'opposizione si rivolgono alla Consulta perché il provvedimento non è mai stato discusso in commissione e quindi si è impedito a loro dire di svolgere le proprie funzioni. Ad annunciare il ricorso alcuni fuoriusciti dal nuovo centrodestra come Carlo Giovannardi e Gaetano Quagliariello. Combatteremo fino in fondo e con ogni strumento per una legge che è sbagliata. C'è chi ha più strumenti di noi, perché potrebbe far valere i propri voti per mettere in crisi il governo, noi speriamo che li utilizzi. Nella maggioranza invece continua il pressing del nuovo centrodestra sul voto trasversale PD Movimento 5 Stelle. Angelino Alfano torna a ribadire che ci saranno dei traumi per il governo, ma dal PD non si retrocede sulla stepchild adoption, ovvero la possibilità di adottare il figlio del partner in una coppia omosessuale, così Giuseppe Lumia. Noi abbiamo avanzato una proposta, è quella della stepchild adoption, che è una proposta forte, in grado di tener conto delle osservazioni e della delicatezza della questione. Riteniamo che questo impianto vada conservato. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a Roma, proprio a Roma, in primo piano la vergogna degli affitti di appartamenti o altri locali di proprietà del comune pagati pochissimi euro, di cui vi dicevo già giorni fa, e mentre c'è chi paga quasi nulla, migliaia di persone non hanno la casa e molte zone della città vivono fra sgomberi, nuove occupazioni. Anche di questo ci occuperemo poi più tardi. Ora il virus Zika. Una donna incinta di ritorno dalla Colombia è stato diagnosticato il virus in Spagna, lo hanno annunciato le autorità sanitarie spagnole, si tratta del primo caso in Europa. La cronaca italiana: un ragazzo genovese ha perso la vita nel rogo di uno chalet di montagna a Villar nel Canton Vaud in Svizzera. Il giovane figlio 21enne di Gianni Onorato, amministratore delegato di MSC Crociere. L'incendio è scoppiato questa mattina verso le 5 in una palazzina di 4 piani composta da una ventina di appartamenti. In totale 15 persone sono state evacuate. La chiusura è il calcio, due turni con la curva nord dell'Olimpico chiusa per la Lazio. Questa è la decisione del giudice sportivo dopo i bu razzisti a Koulibaly che ieri hanno provocato la sospensione per 4 minuti della partita con il Napoli. La Lazio è stata multata con 50.000 euro più una sanzione di 15.000 euro per i cori di insulto contro i napoletani. E qual è la notizia extra di oggi? È stato scoperto il grilletto che fa partire l'invecchiamento. Si nasconde nelle centraline energetiche delle cellule, i mitocondri, cioè lì si nasconde questo grilletto che fa partire una serie di eventi che portano poi l'organismo a invecchiare. La scoperta, pubblicata sulla rivista del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare Lembo Journal, fornisce così un nuovo bersaglio alla lunga caccia dell'elisir della giovinezza e diventa cioè possibile mettere a punto una nuova generazione di terapie capaci di contrastare l'invecchiamento delle cellule. Speriamo che non sia l'ennesimo annuncio che poi ci si metta dei secoli, insomma, ad arrivarci. Comunque, in tutto questo stiamo per aggiornare chi sta viaggiando, però volevo dare anche un'occhiata ai vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. Quello che vi chiedevo a proposito della morte del povero Giulio Regeni al Cairo, ancora in circostanze oscure, che richiama un po' però anche appunto con dinamiche diverse la morte di Valeria Solesin negli attentati di Parigi. Ecco, questo vi fa pensare che il mondo sia diventato davvero pericoloso e vi ha levato questo la voglia di muovervi, di viaggiare, di conoscere altre realtà, oppure vi è rimasta questa voglia di viaggiare? 349-238-6666 per gli sms, oppure le vostre riflessioni potete scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte. E leggo per esempio quella di Ilaria Eloisa che dice: credo che avventurarsi nel mondo sia sempre stato in qualche modo rischioso, i pericoli cambiano nel tempo, c'era una volta i briganti, ora i tagliagole dell'ISIS, in altri tempi si poteva morire per aver contratto il morbo del legionario, ora per l'Ebola, ma è da sempre insito nei migliori noi lo slancio che ci spinge fuori dal comodo nido. Mentre Cristiano scrive: finché è possibile farlo, credo che non si possa rinunciare alle proprie rincorse sensibili, culturali, amicali, curiose. Poi c'è qualcuno che torna sull'utero in affitto, Davide da Milano. Vabbè, se scrivete anche su questo, per carità, anche se l'argomento è quest'altro. Dice: l'utero in affitto esiste già in alcuni paesi per omo eterosessuali, ma non c'entra nulla con la Cirinnà. La ministra vuole strumentalizzare per confondere la gente, ma voi perché ne parlate? Davide, perché l'informazione va su tutto, non è che si possa selezionare. Poi l'obiettivo, diciamo, è sempre quello dell'imparzialità, è un obiettivo, poi è difficile raggiungerla completamente. Enrica dice: fa più paura nascondersi in casa senza capire i tanti perché, c'è una ragione per tutto, occorre capirle per cambiarle. Enrica quindi non ci sta a chiudersi in casa. Voi continuate con i vostri messaggi, giusto il tempo di aggiornare chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Giacomo scrive al 349-238-6666 a proposito dell'argomento che vi ho lanciato questa sera relativo alla morte del povero Giulio Regeni, che vi dicevo richiama alla mente anche la morte della studentessa veneziana a Parigi durante gli attentati di Parigi, Valeria Solesin. Questo ci porta a chiuderci di più, ad aver paura di viaggiare, a vedere un mondo più minaccioso. Giacomo scrive: sicuramente adesso avrai qualche problema nello scegliere alcune destinazioni come per esempio Mosca, Berlino, Londra e anche Roma. Poi un altro messaggio è questo: solo la polizia poteva fermare il giovane, non avrebbe seguito nessun altro nel breve tragitto compiuto, e proprio il giorno in cui l'arresto aveva destato meno stupore. Effettivamente di questo adesso parleremo tra pochissimo. Era già un sospetto, un mio piccolo, insomma, ieri avevo mosso, cioè la possibilità che fossero state, da quello che si diceva del corpo del povero Giulio Regeni, che se fosse stato torturato, la buona probabilità che fossero state forze di sicurezza, forze di polizia, anche per il clima che c'è in Egitto. Ci sono molte versioni contrastanti, ma insomma piano piano si spera che si arriverà, non so se perfettamente alla verità, ma qualcosa in più nelle prossime ore dovremmo saperlo, nei prossimi anche settimane. Prima di cominciare con questo argomento, di entrare nel cuore di questo argomento, vi ricordo alcune delle notizie più importanti di oggi. Appunto, il giallo sull'italiano ucciso al Cairo, torturato a morte, e dall'Italia Mattarella, il governo di come vogliamo, verità, scriveva per il manifesto e aveva paura. L'Unione Europea lima le stime 2016 sull'Italia, sulla crescita economica dell'Italia, il deficit intanto sale al 2,5%. Unioni civili, il PD tira dritto sulla stepchild adoption, il nuovo centrodestra continua a chiedere lo stralcio di questo articolo 5 sulle adozioni, intanto 40 senatori del centrodestra fanno ricorso alla consulta. Gli ideatori di Parigi, delle stragi di Parigi, programmavano attentati a Berlino, sarebbero stati sventati gli attentati a Berlino, 3 arrestati. Intanto c'è stata oggi la conferenza dei donatori sulla Siria, sono stati promessi 9 miliardi di aiuti. E poi affitti a Roma, Marino e Fassina contro il PD, dicono dati vecchi quelli di Tronca, era già tutto online sul sito del comune online, ne parleremo anche di questo argomento. Maltrattamenti di bimbi a un asilo a Pisa, arrestata un'educatrice. E poi la curva della Lazio chiusa 2 turni. Partiamo quindi dalla vicenda terribile di Giulio Regeni, ricercatore friulano di 28 anni, dottorando all'Università di Cambridge, che è stato trovato morto ieri in un fosso alla periferia del Cairo. Vi ricordate, ho dato la notizia proprio in diretta, la prima notizia che era arrivata era che la ministra dello sviluppo economico Federica Guidi improvvisamente aveva fermato la sua missione con i vari imprenditori italiani che erano lì al Cairo per un motivo imprevisto. Questa era la notizia che è arrivata in un primo momento, e poi man mano si è capito che cosa era successo. Questo giovane studente era scomparso dal 25 gennaio scorso, mentre stava lì al Cairo a studiare, andava a una festa organizzata da amici, e sul suo cadavere sono stati riscontrati, così ha detto il procuratore egiziano che sta seguendo le indagini, segni di bruciature di sigaretta, torture, ferite da coltello, orecchie mozzate e segni di una morte lenta. Pensate, la polizia locale egiziana ha provato a dare versioni diverse, a sviare, a dire che addirittura si è trattato di un incidente stradale. Pensate, no? Notoriamente nei incidenti stradali ci si brucia con la sigaretta e si hanno ferite da coltellate. Comunque bisogna dire che la tortura in Egitto è un fatto purtroppo comune e ordinario, e tra l'altro Regeni era scomparso in un giorno particolare, il 25 gennaio, che era il quinto anniversario della caduta del presidente Hosni Mubarak. Ne parliamo con Ugo Tramballi, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Ugo. Ciao, buonasera. E con Giuseppe Acconcia, che è ricercatore all'Università di Londra e autore del libro Egitto, democrazia militare. Buonasera Acconcia. Buonasera a voi. Ugo, tu tra l'altro oggi hai scritto un bell'articolo sul Sole 24 Ore, in cui appunto parli dei giovani italiani che vanno a studiare, che sono anche delle eccellenze, no? Dei ragazzi che mirano a delle prospettive un po' più ampie, come era Valeria Solesin, dicevamo, e come anche Giulio. Ma ci fai capire, tu che sei l'inviato speciale del Sole, che clima c'è in Egitto? È molto credibile che effettivamente siano state forze di sicurezza, forze repressive a fare questo, anche se ovviamente bisogna aspettare di capire qualcosa di più. Per le pagine del Sole 24 Ore, visto che adesso c'è la multimedialità, avevo scritto appunto sul situazione politica in Egitto, nel senso che è molto estremamente probabile che sia stato vittima del clima di estremo, di mancanza di democrazia, del clima di cosiddetta lotta al terrorismo, di leggi speciali. Probabilmente è finito nelle mani di persone, cosiddetti mukhabarat, cioè servizi di sicurezza, che hanno appunto avevano paura di lui come avevano paura di tante altre persone. Non dimentichiamo che sono migliaia i giovani in questi ultimi due anni scomparsi, letteralmente scomparsi. Desaparecidos proprio anche lì dell'Egitto, no? Totalmente desaparecidos. Almeno il nostro ragazzo, se posso dire così, ci hanno almeno restituito il corpo, di tantissimi altri giovani egiziani nemmeno quello. Invece sempre per la multimedialità, per il sito del Sole 24 Ore invece ho scritto non come, cioè ho scritto come padre di questa generazione, perché è questa una cosa secondo me estremamente importante da sottolineare. È certo che il mondo, ho sentito prima, leggevi i messaggi di molti ascoltatori, certo che il mondo è pericoloso, ma non è abbastanza pericoloso per fermare la curiosità dei nostri figli. Io ho due figli maschi che sono stati appunto a Dhaka a lavorare alla Green Bank, hanno fatto il liceo a Vancouver, adesso uno parte per l'Erasmus a Buenos Aires. Perché non possiamo fermare la curiosità dei nostri figli, per fortuna, e questa è la cosa più bella che ci sia. Saremmo, anzi commetteremmo, credo, un delitto, non onoremmo i nostri due giovani ragazzi morti in questa situazione se noi cominciassimo ad avere paura e i nostri figli non partissero. Devono partire, devono conoscere il mondo, sperando poi che tornino a migliorare questo paese, però devono andare via, devono partire. E vorrei anche ricordare che sono più giovani che in Italia muoiono in incidenti stradali, in motorino, per droga, di quanto non siano i giovani che finiscono. Quello senz'altro, anche se finire morti ammazzati da qualcuno è un po' diverso, morire è sempre un fatto purtroppo negativo e doloroso, no? Però volevo chiederti, Ugo, tra l'altro c'è la convinzione generale sui vari siti, sul web, social network, social media degli arabi, che accusano gli oppositori, accusano la polizia del loro paese di avere torturato e ucciso Giulio Regeni. Tra l'altro è in arrivo domani una squadra di investigatori italiani lì in Egitto. Tu pensi che questo possa servire? Certamente vanno lì più di così, forse è difficile fare, ma in un paese come adesso l'Egitto sarà possibile secondo te arrivare alla verità? No, temo di no, stiamo parlando di un paese che è ancora di un sistema che ancora non ha riconosciuto il fatto che un aereo russo sia caduto perché i terroristi hanno messo una bomba dentro, rifiutano l'evidenza. E questo succederà, temo, anche per quanto riguarda noi. L'Italia ha un ruolo molto importante in Egitto. Matteo Renzi ha investito molto su questo paese perché ha capito che è essenziale la sicurezza di questo paese. È stato il primo leader occidentale a incontrare al-Sisi, è stato l'unico leader occidentale ad andare al vertice economico di Sharm el-Sheikh, dove al-Sisi ha presentato le speranze, i piani, i progetti futuri economici dell'Egitto. Abbiamo più di una volta, diversamente dai nostri, da diversi, molti altri nostri partner europei, abbiamo evitato di sottolineare la violazione dei diritti umani del regime, privilegiando appunto la sicurezza del paese. Beh, adesso è il momento, se siamo amici, se siamo autorevoli, è il momento di chiedere alle autorità egiziane, non temo non la verità, ma almeno una dose di verità, una porzione di verità accettabile. Al-Sisi, il presidente che appunto tu citavi, ha detto faremo di tutto, ma insomma possiamo credergli relativamente. Clotilde, come cosa no? Rispondi a Clotilde, che al 349-238-6666 scrive sai Roberta, la morte orribile di Giulio mi ha straziato il cuore. Quello che mi fa male è che dietro le belle parole dei nostri politici non fermeranno gli affari economici, lasceranno passare un po' di tempo e poi tutto come prima, cioè la realpolitik, non possiamo fare diversamente, tu dici, Ugo? Sì, anche perché c'è la coda fuori dall'Egitto, perché l'Egitto è stato riempito di soldi dai sauditi, da tanti altri paesi, perché è un paese, come dicono i tecnici, too big to fail, cioè troppo grande per fallire. In effetti in realtà l'Egitto può fallire, ma ma il suo fallimento sarebbe devastante per una regione già devastata. Quindi certamente c'è l'elemento di sicurezza e di stabilità dell'Egitto fondamentale. Sicuramente dobbiamo preservare anche i nostri interessi economici in Egitto, perché sennò tanto, per esempio, i cinesi, Xi Jinping è stato giusto una decina di giorni prima della delegazione italiana di ieri al Cairo, e i cinesi come nostro non stanno molto a sottilizzare sull'aspetto politico quando fanno il loro, l'aspetto della democrazia quando fanno il loro business. Quindi è giusto che noi preserviamo i nostri interessi, però proprio perché abbiamo molti interessi e perché abbiamo un rapporto diretto con il regime, come dicevo prima, è importante che adesso facciamo valere il nostro peso, se siamo autorevoli veramente. E chiedo a Giuseppe Acconcia. Giuseppe, tu l'hai conosciuto, Giulio? Abbiamo avuto la fortuna di lavorare, collaborare, perché Giulio ha proposto degli articoli al Manifesto, quel giornale per cui io lavoro, e erano degli articoli molto interessanti, perché riguardavano i sindacati dipendenti, riguardavano il movimento operaio egiziano, e quindi ci è sembrato subito un punto di vista intelligente, essenziale per capire l'Egitto del 2016, che è sì un paese dove la repressione dopo il colpo di stato militare è fortissima, però ancora ci sono delle code dei movimenti del 2011, e una delle code più interessanti viene proprio dal sindacalismo indipendente, che è quello che stava studiando Giulio, perché era lì per fare appunto un dottorato per l'Università di Cambridge e si occupava proprio dei movimenti operai egiziani, che hanno una storia lunga e sono stati tra i protagonisti delle proteste di Piazza Tahrir del 2011. Evidentemente però questa cosa lo esponeva ad un pericolo non necessariamente grande, non necessariamente una minaccia concreta, e infatti spesso ci diceva di utilizzare uno pseudonimo perché non voleva apparire. Questa cosa evidentemente significa che temeva qualcosa, però tutti in Egitto in questa fase hanno dei timori. Soltanto nei giorni precedenti il 25 gennaio sono 5.000 le case che sono state perquisite dalle forze dell'ordine, ci sono stati 75 arresti, moltissime persone, studiosi degli Stati Uniti, europei, di altri paesi, sono stati fermati in aeroporto, alcuni sono stati riportati, espulsi dal paese, riportati nel loro paese, proprio perché sono visti dal regime militare di Al-Sisi come una minaccia. Molti giornalisti stranieri che erano residenti al Cairo nella fase più acuta dei movimenti dal 2011 al 2013 hanno gradualmente lasciato il paese, perché ricevono delle telefonate dalle loro rispettive ambasciate che dicono loro è meglio che partite, altrimenti vi arresteranno. Quindi evidentemente il clima generale non fa ben sperare per una ricostruzione dei fatti che segue le autorità egiziane, che dicono, che hanno subito detto, in particolare la polizia ha subito detto dell'incidente. Giulio non guidava, quindi già questa cosa sembra un po' strana. Hanno parlato di una rapina finita male. Chi conosce il Cairo sa che in generale è una città abbastanza sicura, non sono comuni casi di rapine finite male. Ovviamente tutto è possibile, quindi sono delle piste che possono rimanere in piedi, però non bisogna escludere assolutamente la possibilità che sia stato invece arrestato dalla polizia. Su questo punto ci sono tanti elementi, non soltanto questo che vi ho citato del timore che era stato espresso da Giulio, ma una testimonianza di una giornalista egiziana che ha visto uno straniero essere arrestato alla metropolitana di Giza. Giza è una metropolitana che è veramente vicina ad un posto importante per chi ha seguito i movimenti di piazza in Egitto, perché si trova a due passi dall'Università del Cairo, e subito dopo il colpo di stato militare del 3 luglio del 2013 lì c'è stato uno dei due sit-in islamisti di fronte proprio alle porte proprio dell'Università del Cairo, l'altro era Rabela Dawiya, che è stato disperso con un massacro. È probabile che Giulio volesse seguire possibili manifestazioni che si sarebbero dovute tenere da parte degli islamisti proprio nella vicinanza della metropolitana di Giza. Poi queste manifestazioni non ci sono state, quindi non c'è nessun legame tra la sua attività di ricerca e il suo arresto. È sicuramente un fatto che è iniziato male ed è finito anche peggio. Senti, Giuseppe, ci spieghi, visto che l'hai conosciuto, hai detto delle cose estremamente interessanti anche sulla sua attività, le cose che seguiva, sai dirci un po' anche che persona era, che ragazzo era Giulio? La cosa interessante è che ha avuto una formazione marxista, era un appassionato di Gramsci. È questa un filone tra gli studiosi del Medio Oriente molto interessante in questa fase, perché tanti applicano le teorie gramsciane ai movimenti di piazza, perché i giovani, i contestatori, i migranti, le donne, ma gli operai, gli ultra e tutte le figure variegate che si erano raccolte in Piazza Tahrir nel 2011 hanno ispirato ricerche che vengono proprio, partivano proprio dal basso, di movimenti che si creavano per la simultanea occupazione dello spazio pubblico, e questo era uno dei punti che affascinava di più e che aveva permeato di più cerche di Giulio. Infatti anche uno dei suoi ultimi articoli, che domani apparirà sul Manifesto, è proprio su questo, sul fatto che i sindacati indipendenti erano veramente un grande risultato per l'Egitto. Infatti sono stati i primi ad essere stati approvati dopo le rivolte del 2011, quindi questo fa capire che neppure i partiti politici erano pronti ad affrontare una nuova fase di democratizzazione del paese, tanto quanto lo erano invece i sindacati, perché in Egitto c'è un movimento operaio che va avanti da decenni, che ha avuto i suoi picchi nel 1977-85, di queste cose si occupava Giulio. Ma Giulio non era un attivista, e questo è un punto molto importante, era uno studioso, cioè una persona che seguiva questi eventi e li guardava, li osservava, e questo fa di lui una figura ancora più importante, ancora più affascinante, che deve essere assolutamente non solo ricordata ma anche rivendicata. E per questo è importante che si arrivi alla verità e che il governo italiano chieda che si faccia chiarezza sulla sua scomparsa. Grazie Giuseppe Acconcia. Questo ci dice che ovviamente Giulio non era una persona, un cittadino qualunque agli occhi delle forze di sicurezza. Ugo, ti dico solo di questo messaggio, poi ci salutiamo, di Leonardo, che scrive: mia figlia parte ad aprile per l'Egitto per un tirocino di medicina di 30 giorni, mi devo preoccupare? No, non so se si dà da sé la risposta, ma insomma tu proprio sinteticamente cosa gli diresti, Ugo? Beh, anche lui aveva sentito adesso parlare Giuseppe, aveva sentito la passione con la quale ha parlato della sua esperienza, una di quelle cose per cui appunto noi genitori di figli che vogliono girare il mondo dobbiamo essere orgogliosi. Non deve avere paura, i rischi ci sono sempre, certo, ma non deve avere paura, deve avere orgoglio dell'entusiasmo di sua figlia che vuole andare in Egitto a capire il mondo, quello che c'è attorno a noi. Grazie Ugo Tramballi, grazie Giuseppe Acconcia. Poi man mano, se vi sono aggiornamenti, ve li darò durante la diretta. Adesso ci fermiamo, ci prendiamo una piccola pausa di creazione. Voi continuate a scrivere i vostri messaggi tra il 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte. Andrea da Bologna scrive: l'Italia non è più sicura del resto del mondo, vedi ciò che è accaduto a Cucchi, e non solo, dice. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Se state ascoltando Effetto Notte, siete sul posto giusto al momento giusto, anche con la persona giusta, Roberta Giordano, sempre con voi. I vostri messaggi che continuano ad arrivare sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666, qualcuno lo leggo anche da WhatsApp, ma arrivano un po' confusi e piccolissimi, per cui quando riesco ad acchiapparne uno, volentieri. Quello che vi dicevo, abbiamo appena finito di parlare in modo molto appassionato e interessante anche di Giulio Regeni, il giovane studente che è stato trovato morto al Cairo. Ne parlavamo con l'inviato speciale del Sole 24 Ore Ugo Tramballi, ma anche con Giuseppe Acconcia, che è ricercatore all'Università di Londra ma anche collaboratore del Manifesto, e ci diceva con quanta passione Giulio scriveva, con pseudonimo per il Manifesto, dei sindacati, le formazioni sindacali egiziane che ancora resistevano in questo clima di repressione, qualche scia ancora della primavera araba dal 2011. Insomma, un personaggio particolare sta emergendo. Quello che vi ho chiesto è: tutte queste situazioni, come anche Valeria Solesin, la studentessa veneziana che è morta a Parigi nelle stragi al Bataclan, vi fanno chiudere più in voi stessi, vi fanno pensare che il mondo sia più pericoloso, quindi c'è la paura di viaggiare? Un ascoltatore scrive, ecco questo proprio su WhatsApp: non è il mondo ad essere diventato più pericoloso, sono le persone ad essere più pericolose. Quindi diciamo è più o meno la stessa cosa, non c'è la firma, ma insomma questo è il ragionamento. E poi dice un altro ascoltatore: per me Giulio era stato preso di mira prima del giorno della sua morte, la Solesin si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Chiaramente sono dinamiche diverse, però fanno come pensare a qualcuno, no, che sia un po' più rischioso girare per il mondo, anche se altri dicono, per esempio chi si firma, vediamo se lo ritrovo, vigilante notturno, dice in realtà che si trova a viaggiare anche per l'Italia e trova comunque pericolosi pericoloso anche stare nel nostro paese, dice, parla di omicidi, femminicidi, eccetera, e dice è difficile trovare il sito, la pagina Facebook, basta mettere effetto notte trattino Roberta Giordano e lo trovi immediatamente. Adesso vi ricordo velocemente le notizie più importanti e poi passiamo ad altri argomenti. La morte dello studente italiano al Cairo, sul corpo segni di tortura, scriveva per il Manifesto con uno pseudonimo, aveva paura per se stesso, Mattarella e Renzi chiedono la verità. Germania, secondo i media tedeschi, dietro lo sventato attentato di Berlino c'erano le menti di Parigi. La lotta all'ISIS, l'Arabia Saudita annuncia di essere pronta a inviare truppe di terra in Siria e l'Unione Europea annuncia uno stanziamento di 3 miliardi per la Siria, superati intanto i 9 miliardi alla conferenza di Londra. Economia, l'Unione Europea lima le stime di crescita dell'Italia 2016, il deficit sale al 2,5%. Unioni civili, il PD continua sulla sua strada per quanto riguarda la stepchild adoption, nonostante il nuovo centrodestra continui a chiedere lo stralcio delle adozioni e 40 senatori del centrodestra fanno ricorso alla consulta. A Fittopoli a Roma, Marino e Fassina contro il PD, dicono dati vecchi quelli del prefetto Tronca. Nella capitale, scontri oggi durante uno sgombero di abusivi. Zika, donna incinta, affetta dal virus in Spagna, è il primo caso in Europa. Vi ricordate che dopo i fatti di Colonia, di cui si è parlato lungamente, tante polemiche e delle giuste riflessioni, si guardava con un po' di preoccupazione al carnevale che doveva arrivare di Colonia, che è arrivato oggi, 4 febbraio, famoso carnevale, e per paura che si ripetessero magari in modo anche più grave i fatti di Capodanno a Colonia, cioè le molestie sessuali di massa nei confronti delle donne da parte di cittadini extracomunitari, e anche per una maggiore progressiva consapevolezza dei rischi di attentati, c'era, diciamo, nell'aria un po' l'ipotesi di annullarlo questo carnevale, come è successo altrove in Germania. Invece oggi la città se lo sta vivendo probabilmente forse le donne si stanno riprendendo Colonia. Lo chiedo a Cristina Giordano, tra l'altro non siamo assolutamente parenti, non ho analizzato l'albero genealogico, ma non credo proprio, giornalista di Radio Frankhausen Europa. Buonasera Cristina. Buonasera. Cristina, è vero che è una grande tradizione questo carnevale di Colonia? Beh, assolutamente sì, per Colonia è una festa che possiamo definire quasi sacra, ci sono tante cose che possono essere cambiate oppure possono anche essere non parte dell'abitudine, ma insomma è nel sangue dei coloniesi il carnevale, quindi anche quest'anno, nonostante tutto, nonostante quello che è successo a Capodanno, non si rinuncia e non si rinuncia a festeggiare il Weiberfastnacht, il carnevale appunto dedicato alle donne, che apre ufficialmente il carnevale di strada, perché in realtà qui il carnevale inizia già a novembre, l'11 di novembre, però è più un carnevale che si tiene appunto nei locali chiusi con le tipiche Sitzungen, spettacoli con comici, cantanti eccetera, e oggi invece si apre proprio quello che confluisce nelle strade con la gente in costume. Senti, comunque è tutto tranquillo allora, sento alcune voci di donne in sottofondo, quindi sei in un locale adesso? Sì, allora sono uscita fuori dal locale perché in realtà dentro è impossibile parlare, la musica è altissima, però sì, ci sono molte donne, ho chiacchierato con alcune di loro, diciamo che ci sono opinioni diverse, c'è chi dice che insomma preferisce stare nei locali piuttosto che per strada, c'è chi dice beh l'atmosfera è comunque quella di sempre, insomma ci sono opinioni contrastanti rispetto a questo carnevale. È un dato di fatto però che c'è stata meno gente del solito per la strada, anche se probabilmente il motivo è da ricercarsi più che altro nel tempo, perché quest'anno c'è stata pioggia, vento freddo, adesso ci sono 5 gradi, insomma stare in giro tutto il giorno non è piacevole, diciamo così. Si dice qua che Petrus, il dio del sole, non è stato clemente con i carnevalisti quest'anno. Però diciamo il resto mi sembra tutto abbastanza tranquillo e meno male, insomma. Viva Colonia, sì, allora. Sì. Grazie Cristina Giordano. Ciao. Grazie Cristina. Ciao, buon lavoro. Però a fronte di un carnevale che si sta conducendo, il carnevale delle donne così tranquillamente a Colonia, per fortuna tranquillo, oggi in Germania sono state arrestate 3 persone sospettate di progettare un attentato a Berlino, al Checkpoint Charlie, che è un luogo storico della Guerra Fredda. Ne parliamo con Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, sì, effettivamente in realtà già da giorni il timore di un attentato aveva addirittura ad un certo punto fatto sentire a rischio la stessa manifestazione del Carnevale, che come è stato detto è la più sentita delle feste soprattutto del Nord Reno-Vestfalia, e poi manco a farla apposta proprio oggi nel giorno dell'inizio appunto del Carnevale di Colonia questo blitz che ha portato all'arresto di 3 algerini, 2 uomini e una donna accusati di contatti con il Califfato e con i registi in Siria delle stragi di Parigi. Una coppia che era arrivata in Germania a fine 2015 insieme a tutto 1,5 milioni di profughi, avevano detto di essere siriani e non algerini e dall'interno di un campo profughi di Attendorn avevano anche presentato domanda di asilo. Secondo appunto la polizia che ha arrestato questi 3 e poi tiene sotto controllo altri 2, i loro piani erano quelli proprio di un attentato al Checkpoint Charlie, che ricordavi, ossia uno dei luoghi più turistici di Berlino, l'ex checkpoint dove si passava dalla Berlino Ovest alla Berlino Est, e poi all'Alexanderplatz dove c'è la celebre torre della televisione, un altro luogo simbolico e turistico di Berlino, questo secondo indiscrezioni di stampa. Ci sono vari punti che collegano questa cellula che è stata sgominata con il comando di Parigi, anche perché pare che uno dei sospettati fosse stato a Molenbeek, il quartiere di Bruxelles di provenienza di gran parte del gruppo di fuoco di Parigi, un altro ancora aveva un documento falso francese, e poi ancora sono state trovate foto di guerra e di violenza che riconducono al Califfato. Quello che è interessante in qualche modo adesso stare a vedere è come anche quest'altra notizia insieme allo shock di Colonia possa incidere in una Germania, in una Stimmung, cioè in un'atmosfera, in un modo di sentire dei tedeschi nei confronti della politica di accoglienza dei migranti che è sempre più sotto accusa, e staremo a vedere anche che cosa succederà nelle prossime elezioni regionali di metà marzo. Grazie Raffaella Calandra, ciao Raffaella. Grazie a te, ciao. Buona serata, viabilità. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Qualche ascoltatore scrive che la morte di Giulio Regeni ricorda più che Valeria Solesin, dicono Ilaria Alpi, dice Valentino Borgia al 349-238-6666, dice quando si fanno inchieste, indagini pericolose bisogna essere preparati, non sognatori, quindi prudenti, e anche su WhatsApp questo messaggio. Continuo anche le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vi ricordo che le notizie più importanti sono appunto questo giallo sul giovane italiano ucciso al Cairo, torturato a morte, dicono gli inquirenti, e l'Italia dice vogliamo... la verità. Scriveva per il Manifesto, aveva paura per se stesso, come abbiamo detto con un testimone che l'ha conosciuto. L'Unione Europea che lima le stime di crescita per l'Italia 2016, il deficit intanto sale al 2,5%, e Unioni Civili con il PD che tira dritto, il nuovo centrodestra chiede stralcio delle adozioni e 40 senatori sempre del centrodestra fanno ricorso alla Consulta. Abbiamo appena parlato di attentati sventati a Berlino, sembra che dietro ci fossero gli ideatori delle stragi di Parigi, 3 gli arresti oggi in Germania, e poi maltrattamenti a bambini in asilo, arrestata un'educatrice a Pisa. E siamo all'appuntamento con Youzone, la rubrica che propone un dialogo tra elettori e rappresentanti per conoscere meglio il lavoro degli europarlamentari. Youzone, incontro con gli europarlamentari. Nome: Lara. Cognome: Comi. Età: 32. Nata: Carbagnate Milanese. Eletta in? Nord-Ovest. Con quanti voti? Quasi 84.000. Partito politico? Forza Italia. Gruppo politico? Partito Popolare Europeo. Segni particolari? Nessuno ad ora. Quante lingue parla? 3. Competenze europee in 10 parole? Giovani, impresa, agricoltura, i Marò, il Made In, mercato interno, Bolkestein. Benvenuta nella Youzone di Radio 24. Le leggo un titolo dal giornale. I professionisti sono i nuovi poveri. Lo penso anch'io. Sono dei professionisti, hanno delle alte capacità e qualifiche, ma il mercato del lavoro non è competitivo in questi settori. Dal Fatto. L'austerità non si tocca, l'Italia si inchina all'Europa. No, assolutamente no, l'austerità si deve toccare, non è una mission impossible, anzi siamo a Bruxelles per avere flessibilità, ma la flessibilità vera, quella per gli investimenti, non per il debito. Più lavoro in Italia o in Europa? Dato che l'Italia è in Europa, mi auguro che sia in entrambe le circostanze. Cosa fa l'Europa per agevolare l'occupazione? Noi abbiamo dato tanti fondi, soldi, ad esempio il Fondo Garanzia Giovani, il problema è che vengono spesi male. Partire è meglio che restare? Se non c'è lavoro in Italia, meglio partire. Cosa vuol dire essere popolare? Essere popolare vuol dire essere tra la gente, stare tra la gente ed essere uno di loro. Dopo Berlusconi esisterà ancora Forza Italia? Secondo me no. Come sta il suo partito? È un po' influenzato in questo periodo, però siamo verso la guarigione. La cura? Un bel anti-influenzale, un vaccino. Tre motivi per cui ha scelto Forza Italia? Perché è un partito liberale, crede quindi nel mercato e crede nella riduzione delle tasse. Cosa pensa dei politici di vecchio corso? Se hanno ancora passione e vogliono inserirsi nell'ambito politico, devono essere sicuramente utili anche ai giovani che sono entrati. E cosa dice ai giovani che scelgono di fare politica? Di non pensare che questo sia un lavoro, è un'esperienza ed è un servizio per i cittadini. Il suo motto? Non mollare mai. Riesce a farci stare in 30 secondi il senso del suo lavoro? Rispondere sicuramente alle esigenze vere dei cittadini, non illuderli con delle proposte irrealizzabili, perché io penso che la verità paghi sempre ed è giusto che non vengano presi in giro i nostri cittadini con delle promesse assolutamente irrealizzabili per solo qualche voto. Il valore europeo più alto? Quello della solidarietà, che è un valore che dobbiamo ancora ben comprendere e far applicare da tutti gli stati membri. Quello che dell'Europa non le va giù? L'egoismo nazionale. Tra 10 anni come si vede? Penso e spero con una famiglia. YouZone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E ritorno ai vostri messaggi, dice Cristina, a me hanno colpito di più i fatti di Colonia di Capodanno, quindi sì, ho più paura che anche qui in Italia, non mi sento per nulla sicuro, soprattutto nelle stazioni, la domanda che facevo all'inizio a proposito della morte di Giulio Regeni, anche se naturalmente per questioni diverse. Mentre Paola, abbiamo appena sentito che le donne oggi con il loro carnevale a Colonia si sono riprese la città, dice Paola, siamo stimo le donne di Colonia, così deve essere, non possiamo farci condizionare da azioni il cui scopo è seminare il terrore, è giusto continuare a vivere una vita normale. Ora però parliamo dei furbetti degli affittini, è il caso proprio di dire affittini, perché ve ne parlavo già giorni fa, proprio degli affitti di immobiliare, anche molto prestigiosi in centro Roma, pagati pochi euro al mese, case praticamente a prezzi stracciati, tra gli inquilini del comune, non solo privati cittadini, a volte anche morosi, ma anche partiti politici, abbiamo sentito, realtà commerciali di vario livello. E sul tema una prima indagine precedente a quella del prefetto Tronca, della sua task force, era stata fatta dall'amministrazione Marino, Ignazio Marino, ex sindaco, che oggi ne ha parlato proprio in un'intervista a Stefano Cappellini a Repubblica. E dalle case di affittopoli si va a quelle oggi occupate, perché mentre c'è chi paga quasi nulla, migliaia di persone non hanno la casa, e oggi sono state manifestazioni piuttosto vivaci in città, fra sgomberi, nuove occupazioni. Ne parliamo proprio con Stefano Cappellini di Repubblica, capo della cronaca di Roma. Ciao Stefano. Buonasera. Stefano, quindi tu hai intervistato Marino, che ha detto veramente c'erano già questi dati che Tronca sbandiera, no? Però al di là di questo, queste manifestazioni che ci sono a Roma del movimento Action Diritti per la Casa, sono effettivamente persone che non hanno la casa? Si sono imbizzarrite per quello che hanno sentito degli affittini, dei furbetti degli affitti, o qual è il problema? Ogni tot ritornano a manifestare? Ma insomma, io credo che non so ovviamente se c'è un collegamento diretto tra quello che è successo oggi, gli scontri e il caso degli affitti a prezzi stracciati. È chiaro però che insomma, un legame esiste, perché queste notizie e in generale il fatto che ci sia di nuovo attenzione sul problema casa, ovviamente dà linfa a chi vuole protestare e a chi vive spesso anche situazioni di estremo disagio, perché ovviamente leggere che c'è chi comunque ha trovato una soluzione come quelle di cui abbiamo letto in questi giorni, con canoni irrisori, non può che acuire il malessere, la tensione di chi invece il problema della casa non lo ha risolto, e a Roma continua a essere un problema molto grave che riguarda centinaia di famiglie, migliaia di famiglie. e quindi insomma un legame ovviamente c'è. Senti, oggi con Marino parlavi proprio del fatto che queste notizie che ha dato in questi giorni la task force del commissario Tronca in realtà erano già state elaborate dalla sua amministrazione? Ma io sinceramente non sono molto appassionato al gioco del chi ha fatto prima cosa, cioè c'è un gioco a intestarsi il merito di aver fatto per prima, di chi ha fatto per prima. L'importante dice averlo scoperto, averlo tirato insomma, fuori. No, ma soprattutto l'importante sarebbe diciamo ristabilire una situazione di legalità. Adesso diamo per buono quello che dice Marino, che sostiene anche con elementi fondati insomma di aver avviato per primo questo censimento e di aver disposto gli elenchi. Il problema dei cittadini non si chiedono tanto chi ha fatto prima, certo, il censimento, si chiedono se c'è regolarità in queste situazioni o se c'è una situazione di totale anarchia. Il punto è capire se veramente queste case sono abitate da persone che ne avevano diritto, ne hanno tuttora diritto, perché poi il problema è anche questo, cioè le mancate verifiche, i mancati controlli, magari persone che 20 anni fa o 30 anni fa potevano avere dei requisiti, nel frattempo magari ne hanno molti meno di altri che invece ne avrebbero molto più bisogno. Quindi mi pare un po' ozioso il tema di stare a stabilire chi è stato, a chi va il merito del censimento di questo patrimonio comunale. Il problema è ristabilire una situazione di legalità e di ordine. Anche perché sono persi milioni di euro, no? In questo modo. Sì, assolutamente. Poi chiaramente c'è una perdita, c'è anche un discorso sociale che va affrontato con, secondo me, anche con meno demagogia, nel senso che è ovvio che sentire di parlare di canoni a 10 euro fa indignare tutti. È anche vero, diciamo, che molte di queste case non sono abitate da professionisti privilegiati, da amici della casta, sono abitate da pensionati a basso reddito. Ora si può discutere se diciamo se un canone di 10 euro sia giusto o meno, però giusto o meno, come dicevi però bisogna tu. bisogna anche diciamo porsi il problema del fatto che non si possono deportare comunque famiglie a basso reddito. Il problema vero, che credo a tutti diciamo crea indignazione, è soprattutto il come dire l'arbitrio che c'è dietro l'assegnazione di queste case. È chiaro. Stefano Cappellini, dobbiamo lasciarci, ti ringrazio intanto, grazie Stefano Cappellini di Repubblica, buona serata Stefano. Buona serata. Noi ci risentiamo alle 22.